24. La storia. Vi dichiariamo formalmente guerra. È una scelta che voi avete provocato, perché noi preferiamo la pace. La città di Genova è la meno adatta a garantire uno svolgimento tranquillo del vertice. Lo slogan era voi 8 e noi 6 miliardi. Qualcuno sosteneva la tesi che a Genova ci dovesse scappare il morto. L'Italia sta creando la città! Questa è una vergogna! Dottor Mondelli, prosegua per Marazzi. Ho deciso in questo momento di sparare due colpi. Oddio! No! Rabbia. Il sabato era la rabbia. Non è che i violenti portassero al braccio un segno di riconoscimento. Andiamo da tutti e mani alzate! Voglio vedere cosa avete fatto. Chiamate il vostro capo. Abbiamo trovato bottiglie Molotov, abbiamo trovato coltelli. È il 19 luglio 2001. A Genova si apre il G8, il summit degli 8 paesi più industrializzati del mondo, per l'Italia e per il nuovo governo Berlusconi in carica. Da pochi mesi è un appuntamento importante, un'occasione di prestigio agli occhi del mondo. E invece quelli di Genova saranno i giorni dell'odio, della follia, scontri violentissimi tra manifestanti e forze dell'ordine, centinaia di feriti e un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere. Quello che vogliamo proporvi è un racconto ora per ora di quelle terribili giornate di Genova, a cominciare dalla decisione di tenere il G8 proprio nel capoluogo ligure. Un importante impegno in Italia. Dopo Venezia e Napoli, tocca a Genova. Il G8 torna in Italia e torna in riva al mare, tanto che nel logo fanno bella mostra di sé 9 vele, memoria della storia tutta italiana delle repubbliche marinare. 3 giorni di riflettori su Genova, a partire dal 20 luglio, data scelta con le elezioni da un pezzo alle spalle. Dicembre 1999. La notizia che il G8 si terrà a Genova viene accolta con grande entusiasmo dalla città. Nel 1994 il G7 a Napoli è stato un grande successo per l'Italia e per il capoluogo campano. Un evento che Napoli ha saputo sfruttare come vetrina e come pretesto per importanti lavori di riqualificazione urbana. Ma nel corso dei mesi, intorno al G8 di Genova, crescono le perplessità. Un vertice così importante richiama migliaia di persone e Genova sembra il luogo meno adatto per garantirne la sicurezza. Una città piccola, stretta tra il mare e gli Appennini, con un centro storico fatto da una miriade di stradine anguste e senza vie di sbocco, dove è difficilissimo assicurare l'ordine pubblico. A peggiorare le cose si sta affermando nel mondo un ampio fronte di protesta che prende di mira proprio questo tipo di incontri internazionali. In Italia questo variegato movimento è rappresentato dal Genoa Social Forum, una rete di associazioni il cui portavoce è Vittorio Agnoletto. Nell'ottobre del 2000 cominciano a realizzarsi a Genova le prime riunioni, tra associazioni molto diverse anche fra di loro. I temi per cui si batte il Genoa Social Forum sono numerosi, dalla richiesta di cancellazione del debito dei paesi più poveri al no alla privatizzazione dell'acqua, dall'accesso ai farmaci per le popolazioni del terzo mondo alla riconversione dell'industria militare. Lo slogan era voi 8 e noi 6 miliardi, per rivendicare la contrapposizione tra la popolazione mondiale e 8 potenti che rivendicavano in modo arrogante il diritto a decidere le sorti di tutto il mondo. Agnoletto è l'anima pacifista del movimento, ma ha un alter ego in Luca Casarini, il leader delle tute bianche, i disobbedienti, il gruppo che riunisce i giovani della protesta radicale. È il movimento No Global, data ufficiale di nascita 30 novembre 1999 a Seattle, in occasione del Millennium Round, la riunione dei 134 ministri dell'economia di tutto il mondo. A Seattle scendono in strada 50.000 manifestanti. Ci sono 200 arresti e danni per 10 milioni di dollari. Per il movimento è un battesimo del fuoco. La contestazione di questo tipo di vertici da parte del movimento No Global diventa una prassi. Dopo Seattle tocca a Davos, quindi a Praga e Nizza, per poi arrivare al vertice sul Digital Divide, il divario tecnologico, che si tiene proprio in Italia, a Napoli, dal 15 al 17 marzo 2001. Dalla protesta del 77 è passato quasi un quarto di secolo. Gli scontri di Napoli rappresentano un'assoluta novità per le forze dell'ordine, ormai abituate a gestire l'ordine pubblico con modalità molto più morbide. A Napoli, invece, per la prima volta dagli anni 70, torna la linea dura. Gli scontri di Napoli del marzo 2001, a soli 4 mesi dall'inizio del G8, suscitano naturalmente allarme e polemica, anche perché al governo c'è il centro-sinistra. Il 15 giugno del 2001 i capi di Stato dell'Unione Europea si riuniscono a Göteborg in Svezia. Ci sono nuovi scontri, ma questa volta il bilancio è ancora più pesante. Al G8 di Genova oramai mancano solo 30 giorni, un mese. Göteborg, Svezia, 15 giugno 2001. Un manifestante di 19 anni viene gravemente ferito da un colpo di pistola sparato dalla polizia. Il ragazzo ferito a Göteborg è un black bloc, un'altra novità del panorama della nuova contestazione radicale. Giovani, in prevalenza del Nord Europa, che contestano violentemente ogni forma di globalizzazione. Il loro obiettivo sono i simboli del capitalismo: fast food, banche, agenzie di lavoro interinale. I black bloc devastano, saccheggiano. Le loro azioni sono dei veri e propri blitz. Appaiono, colpiscono, scompaiono. Ma cosa significa essere black bloc? A spiegarlo è Luca Casarini, leader dei No Global. Black bloc è una tattica, è una filosofia, è un modo di intendere la protesta radicale, è un modo di costruire un'opposizione, ma non è un gruppo, un'organizzazione, che hanno un'altra filosofia rispetto a quella che avevamo noi e che aveva il Genoa Social Forum. E su Genova occorrerà fare delle riflessioni. Io non ho avuto il modo e il tempo per affrontare nei dettagli questo problema. È chiaro che noi non potremo cambiare di molto l'organizzazione, che quindi i meriti e le responsabilità di ciò che accadrà non saranno nostri. Il nuovo governo di Silvio Berlusconi è molto preoccupato. L'organizzazione del G8 a Genova e le misure di sicurezza da prendere si rivelano molto, molto complesse. Genova è una città molto particolare, difficilissima da controllare e da difendere. Qualunque manifestazione può trasformarsi in una trappola micidiale, ma ormai per cambiare sede è troppo tardi. A gestire la sicurezza e la prevenzione a Genova è il nuovo ministro dell'Interno, Claudio Scajola. C'erano degli allarmi molto forti che arrivavano dai servizi stranieri, non soltanto italiani, che venivano a me trasmessi. Dovevamo tutelare al meglio le nostre frontiere aumentando i controlli. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Dunque, per il G8 del luglio 2001 a Genova è tutto pronto. Ma nei giorni precedenti il clima è già tesissimo. Parlavano di batterie antiaeree, parlavano di body bag, cioè quelle buste dove mettono i cadaveri. A Genova è arrivato anche un mezzo speciale in caso di intossicazioni da fumi, gas e sostanze irritanti. Cioè, come se ci fosse la guerra a Genova, no? La città di Genova, per la sua urbanistica, è la meno adatta a garantire uno svolgimento tranquillo del vertice. Così le tute bianche e il movimento antiglobalizzazione rispondono all'annuncio del governo di voler schierare a Genova anche i militari per l'operazione G8 tranquillo. Ok, allora ci avete dichiarato guerra, vi dichiariamo anche noi guerra. Vi dichiariamo formalmente guerra. È una scelta che voi avete provocato, perché noi preferiamo la pace. Per Genova l'arrivo dei grandi leader mondiali doveva essere una festa. La città invece è una trincea. Per arginare le decine di manifestazioni previste, il capoluogo ligure è stato suddiviso in 3 zone. Una zona verde dove è consentito manifestare liberamente, una zona gialla dove la circolazione è limitata e una terza zona completamente off limits, la zona rossa, dove si terrà il G8 vero e proprio. L'accesso alla zona rossa è assolutamente vietato e a pochi giorni dall'arrivo delle delegazioni ufficiali vengono erette delle grate alte 5 metri a delimitarne i confini. Li troverai là col tempo che fa estate inverno, a stratracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Che effetto le fa tutta questa situazione? L'unica persona che c'è in giro è la polizia e basta, non c'è altro. Genova è una città militarizzata, presidiata da 13.000 agenti delle forze dell'ordine. Tra loro, dopo un breve corso di addestramento, anche un giovane calabrese di 21 anni, carabiniere ausiliario, da soli 10 mesi. Io all'inizio non ero rientrato in questa selezione. però un amico mio non è potuto andare al G8 e mi hanno detto se volevo partecipare e sono andato. Mario Placanica, lo avete sentito, a Genova non doveva neppure esserci, ci si è trovato quasi per caso e quasi per caso sarà suo malgrado protagonista della tragedia di quei giorni. Ma intanto all'inizio del G8 mancano ormai poche ore, le forze dell'ordine sono pronte a tutto, anche al peggio. Ci hanno messo al corrente di come sarebbero potute andare le cose e ci dicevano che chi tornerà a casa sarà fortunato. A meno due giorni dall'avvio del controverso. La polizia che non manca praticamente in nessuna qui zona. Qui non hanno bisogno di inventarsi niente, perché la città così com'è fa paura. Mercoledì 18 luglio. Nonostante la vigilia di alta tensione, migliaia di manifestanti cominciano ad affluire in città. La serata del 18 è caratterizzata da un grande concerto. Suonano i 99 Posse e Manu Chao, ma prima di lasciar spazio alla musica, Agnoletto dal palco lancia un messaggio. Là dietro, guardate che hanno alzato degli inferriati, delle sbarre che hanno trasformato Genova in una città quasi in guerra. Ma noi diciamo in modo molto chiaro che qua gli unici prigionieri, quelli che la moltitudine non vuole, quelli che questo mondo non vuole, sono gli otto potenti che pensano di poter decidere tutto. Ma non è clandestina, boliviano clandestino, peruano clandestino, marijuana illegale. Siamo con centro storico chiuso in un ghetto, manifestare non è reale. I grandi vittime di una globalizzazione che li vuole solo come schiavi da sfruttare e poi gettare via. Giovedì 19 luglio. A Palazzo Ducale fervono i preparativi per il vertice. Tutto è pronto. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si occupa personalmente dell'accoglienza dei capi di Stato a bordo della European Vision, la nave predisposta per ospitarli. In città lo scenario è quasi surreale. Le strade della zona rossa sono vuote. Solo qualche macchina della polizia attraversa una Genova deserta. Presidente, com'è Genova? Mi pare che abbia cambiato faccia, non è vero? E siamo a venerdì 20 luglio del 2001, è il giorno dell'inizio ufficiale del G8, il giorno più temuto dal governo e dalle forze dell'ordine. Dopo una notte di pioggia, la città però si sveglia tranquilla. Venerdì 20 luglio, ore 10. Nella zona rossa cominciano ad arrivare i capi di Stato stranieri. Le forze dell'ordine sono schierate al gran completo. Allo stadio Carlini, le tute bianche si preparano per il corteo, provando gli scudi che dovranno difenderle una volta sfondata la zona rossa. La loro è solo una delle tante azioni simboliche previste per la giornata. Ascoltiamo ancora Luca Casarini. C'era chi sarebbe arrivato ai confini della zona rossa e avrebbe buttato di là dei palloncini. C'era chi come noi avevamo gli scudi, le protezioni, eccetera, perché se la polizia ci caricava prima di arrivare alla zona rossa, nel senso ai limiti della zona rossa, noi potevamo proteggerci. Ma se fossimo arrivati a quelle reti, noi avremmo tentato di tirarle giù e di andare dentro. Ore 11:30. I manifestanti cominciano a radunarsi nelle varie piazze tematiche, ognuna con la sua forma di contestazione e di protesta. Fanno la loro comparsa anche i primi black bloc. La prevenzione alle frontiere, per l'occasione nuovamente chiuse, non ha funzionato. Ma non è possibile! Portatemi via! Arrestatemi! Cosa volete che vi dica? Sta distruggendo l'ufficio! Ci stanno massacrando la città! Questa è una vergogna! E anche ci mettiamo in marcia con questi grandi scudi, eccetera. Davanti al corteo c'è il nostro gruppo di contatto, si chiamava, quindi Paolo Cento, qualcuno di Rifondazione, insomma, un gruppo che ha la funzione di, casomai, di trattare, insomma, no, rispetto alla cosa. E poi noi. Senza armi, senza pietre, senza castelli. A questo punto la zona nord della città è in mano ai Black Bloc. Per fermarli la sala operativa della questura invia un battaglione di carabinieri. Quello che vi presentiamo è l'audio originale della comunicazione tra la sala operativa e quei carabinieri. Avanti la gamma 1, che è l'ascolto. Mario, una cortesia. Devi andare veloce però in piazza Giusti. Piazza Giusti, c'è un gruppo di un migliaio di anarchici che stanno facendo tutto. Ci puoi arrivare andando dritto per corso dove ti trovi tu adesso. finché non arriva l'incrocio con Corso Torino, gira a sinistra e vai dritto. Però devi fare subito perché sta scendendo da Corso Gastaldi un altro corteo. Il corteo che sta scendendo da Corso Gastaldi è quello delle tute bianche. I carabinieri del 3° Battaglione Lombardia, guidati dal vicequestore di polizia Mario Mondelli e dal comandante dei carabinieri Antonio Bruno, si mettono in marcia verso Piazza Giusti. Il rischio da evitare è che i due gruppi, quello dei carabinieri e quello delle tute bianche, si incrocino. Man mano che ci avviciniamo c'è un clima abbastanza irreale, cioè nel senso questo vuoto, è noi che camminiamo, che andiamo avanti, eccetera. Nel frattempo i Black Bloc si sono spostati e attaccano il carcere di Marassi. Ma anziché fronteggiarli, il contingente dei carabinieri che presidia il penitenziario si ritira. Contro il carcere vengono lanciati sassi e bottiglie Molotov. La sala operativa della questura ordina al battaglione dei carabinieri diretto verso Piazza Giusti di proseguire invece per il Marassi. Le comunicazioni però appaiono difficoltose. Dottor Mondelli, prosegua per Marassi. Dottor Mondelli, per cortesia, abbiamo una situazione particolare da seguire. Dottor Mondelli da centro. I reparti che sono con il dottor Mondelli rispondano al centro. Va bene, abbiamo già risolto, abbiamo al telefono, si sta avvicinando a Marassi, va bene. E invece, arrivato all'incrocio con Corso Torino, il battaglione dei carabinieri, anziché superare il sottopassaggio ferroviario e proseguire per Marassi, dove si trovano i Black Bloc, scende dai blindati. Di fronte a dei manifestanti. Sono la testa del corteo delle tute bianche, tra cui anche il gruppo di contatto composto da vari parlamentari, giornalisti e operatori televisivi. Il 16 novembre 2004, al processo che si terrà per gli scontri, il vicequestore Mario Mondelli dichiara: arrivati su Corso Torino, da via Ivrea, quindi da una traversa perpendicolare a Corso Torino, per quanto ricordi, mi accorsi che c'erano a poche decine dall'incrocio, c'erano diverse centinaia di dimostranti che lanciarono oggetti nei confronti del reparto. Che tipo di oggetti? Ma ricordo pietre, vagamente pietre e bastoni, ma non è che posso essere preciso, erano una serie di oggetti contundenti comunque. E una volta sgomberata l'area, l'intenzione mia era quella di salire a bordo dei mezzi e proseguire verso Marassi. Ci sono state delle cariche nelle quali abbiamo utilizzato anche dei lacrimogeni. Ora è 14:56. Dopo un fitto lancio di lacrimogeni, parte la prima carica contro il gruppo di contatto che scappa a sinistra. I carabinieri inseguono i manifestanti. A quel punto, però, il battaglione si trova in via Tolemaide. Dietro di loro, inaspettato, c'è il corteo delle tute bianche, fermo nel punto più stretto del viale. Un battaglione di 200 carabinieri si trova faccia a faccia con 10.000 manifestanti del corteo autorizzato delle tute bianche. Ma perché i carabinieri non hanno proseguito per il carcere di Marassi? Perché hanno deciso di fermare la colonna di blindati e sono scesi per fronteggiare i manifestanti? Come sono nati gli scontri? E queste domande probabilmente è impossibile e sarà impossibile dare una risposta. L'unico dato di fatto è che a Genova ha inizio una vera e propria guerra per le strade. Mettetevi dietro gli scudi, non buttate niente! Avevamo paura, in quel punto lì era un punto delicato, diciamo così, perché non ha vie di fuga. Al che neanche ora pensare che appunto bisogna far presto per uscire da quel buco, e cominciamo a sentire i passi ritmati dal battere degli scudi di questo plotone di carabinieri che avanza da Corso Torino praticamente e comincia a sparare lacrimogeni. Ore 15. Inizia la prima sessione di incontri del G8. In quello stesso momento i carabinieri decidono di caricare il corteo delle tute bianche. Il corteo si aspettava anche il momento della carica. Non voglio essere ipocrita. Il corteo aveva detto violiamo la zona rossa. Ma il corteo fu caricato nella parte autorizzata della manifestazione e non nel momento in cui voleva violare la zona rossa. Mix Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, a Genova sono le 15.10. Il primo dirigente di polizia, Angelo Gaggiano, che segue l'evolversi della carica nei pressi della stazione di Brignole, chiede ripetutamente alla sala operativa della questura di fare indietreggiare il battaglione dei carabinieri. Vorrei sapere, i carabinieri che stanno con il collega che è arrivato in via Tolemaide, vi riferite che ci lasciassero passare le tutte bianche, le viste facessero passare, perché sennò si girano dall'altra parte. Ma dottore, bisogna andare a contattarli direttamente, non riusciamo a comunicare con loro in nessun modo. La sala operativa della questura ormai è nel caos. Il terzo battaglione Lombardia non riesce a ricevere l'ordine di ritirarsi e prosegue nelle cariche. Le tute bianche rispondono. Avvolta nella nebbia acre dei lacrimogeni, la città vive scene di guerriglia. Nella confusione totale che regna in quelle ore, il battaglione dei carabinieri è ormai isolato dalla sala operativa della questura. Eppure la registrazione delle comunicazioni radio parlano chiaro. Quel battaglione non doveva trovarsi in via Tolemaide. Ma ormai la situazione è una situazione fuori controllo. Per trarre in salvo i colleghi in difficoltà dalla sala operativa viene inviato il 12° battaglione Sicilia dei carabinieri, e il battaglione in cui presta servizio anche il carabiniere ausiliario Mario Placanica. Durante la giornata avevo sparato solo un lacrimogeno, perché il comandante mi ha preso il lanciagranate dalle mani e si è messo lui a sparare lacrimogeni. Toglievo il nastro e glielo passavo al comandante, a lui sparava. Mi sono sentito male appunto facendo questa operazione, non riuscivo a vedere e non riuscivo a respirare bene. E in questa occasione ha deciso il comandante di farmi salire sul Defender, che si trovava in via Caffa. Ore 17. Gli scontri durano ormai da 2 ore. Mario Placanica, intossicato dai gas lacrimogeni, trova riparo su un Defender dei carabinieri. Ore 17.22. 50 carabinieri con 2 Defender al seguito avanzano contro i manifestanti su via Caffa, una traversa di via Tolemaide. I militi vogliono caricare il corteo sul fianco, ma sono in netta minoranza e hanno la peggio. Ad un tratto mi accorgo che il Defender fa retromarcia. Però non avevo capito bene cos'era. Ed era una folla di No Global con spranghe di ferro, di legno. I carabinieri sono scappati e ci hanno lasciati scoperti. Mario Placanica è su uno di quei 2 Defender. Si sente male, è stravolto da una giornata di scontri. Il suo battaglione è stato lanciato contro una folla di ragazzi che da ore combatte una vera e propria battaglia contro le forze dell'ordine. La jeep su cui si trova Placanica tenta la fuga, ma la manovra è maldestra e il Defender, bloccato da un semplice cassonetto della spazzatura, resta in balia dei manifestanti. Di fronte a noi c'era un altro Defender dei carabinieri. Questo Defender è riuscito a scappare e siamo rimasti soli, incagliati con il cassonetto della spazzatura in Piazza Limonde. A un certo punto mi sento colpire in testa e ho visto che mi stavo uscendo del sangue. Placanica è ferito. Chiede aiuto a Dario Raffone, un carabiniere di leva che è con lui. In preda al panico, decide di estrarre l'arma. Gli dicevo: allontanatevi, andatevene. Però non si calmavano. Placanica brandisce la pistola. A 4 metri e 19 centimetri dal portellone posteriore del Defender c'è un altro ragazzo. Lui di anni ne ha 23, è di Genova e si chiama Carlo Giuliani. Il volto coperto da un passamontagna, Giuliani forse vede quell'arma impugnata dal carabiniere. Si china per raccogliere un estintore, lo solleva e si lancia verso il Defender. Ho deciso in questo momento di sparare 2 colpi. Oddio, cazzo, c'è uno pezzo. Oddio! No! Carlo Giuliani muore in piazza Limonda alle 17.27 di venerdì 20 luglio, ucciso da un colpo di pistola sparato da Mario Placanica. Subito dopo, il carabiniere alla guida, Filippo Cavataio, riesce a disincagliare il Defender e ingrana la retromarcia. Nel fare manovra, prima di allontanarsi, sale 2 volte sul corpo di Carlo Giuliani. Alle 3 ho telefonato a Carlo, lui appunto era a Piazza Manin. Gli ho chiesto come stava, gli ho detto di stare attento, lui, come sempre, mi ha detto stai tranquillo, le cose di ovvie per tranquillizzare un padre. Molte volte mi accuso del fatto di non avere inventato qualcosa di grave in casa per farlo tornare su. Era a Manin, quindi sotto casa, si può dire. E penso che non mi è venuto in mente di dirgli che sto male, ho bisogno di te in questo momento, vieni su. E però come si fa a sapere? Come si fa a prevedere una cosa così terribile? Per me, come è stato rendermi conto, per me è stato un colpo. Per me è stata una cosa inaspettata, non mi aspettavo una cosa del genere. Anche perché non c'era una persona davanti a me quando ho sparato. Non vedevo, però non c'era, l'ho capito che non c'era nessuno. La morte di Carlo Giuliani è una tragedia inaspettata, ma forse non del tutto imprevedibile. Ma su quella morte che ha sconvolto l'intera Italia vengono subito fatte molte, molte ipotesi. Ho sparato questi due colpi tentando di sparare in aria il più possibile, perché la visuale era ridotta all'interno del Defender. Non è che c'era una visuale, diciamo, da poter proprio sparare in aria chissà quanto. C'erano carabinieri all'esterno, c'erano poliziotti, nessuno è intervenuto per calmare la questione. Si poteva evitare tutto. Con l'intervento dei colleghi si poteva evitare tutto. Tra le varie ipotesi che si sono susseguite, c'è anche quella che non sia stato il carabiniere ausiliario Mario Placanica a sparare e che il suo nome sia stato utilizzato per coprire un suo superiore, anche lui presente sul Defender. Ma chi ha sparato davvero a Carlo per ucciderlo? Chi è che è rivolto verso l'autista e che a un certo punto si pone le mani, entrambe le mani, sulla testa, quasi a coprirsi le orecchie? È lo stesso carabiniere che si dice che abbia sparato, lo stesso carabiniere Placanica? Io so solo che ha sparato quei due colpi, non ho sentito altri spari, non ho sentito niente, anche perché in macchina non si poteva sentire niente, c'era il rumore di ferraio, di cose, anche se è stato un altro, non posso saperlo io non so niente, io so solo che ho sparato quei due colpi e basta, e so solo che ho sparato non per colpire ma per allontanarli. Legittima difesa, sostiene l'arma. La camionetta bloccata ad un angolo della piazza era aggredita dai manifestanti. Placanica ebbe paura, sparò due colpi in aria. Un proiettile fu deviato, Carlo Giuliani fu colpito a morte per fatalità. I consulenti del pubblico ministero hanno creato questa leggenda del calcinaccio che devia il proiettile. E hanno fatto lunghi studi sulla velocità della luce, sulla velocità del suono, sui fotogrammi, sui frame. L'unica cosa che secondo me non hanno fatto, ma che è di una evidenza lunare, è avere fatto un close-up, un ingrandimento del filmato relativo all'uccisione di Carlo, dal quale si vede, ma senza il minimo dubbio, in che posizione è la pistola. Al di là dei tanti dubbi, in sede processuale quella perizia è stata ritenuta valida. Dunque il proiettile sparato verso l'alto avrebbe colpito Carlo Giuliani dopo essere stato deviato da un sasso. Il 5 maggio 2003 la Procura di Genova ha archiviato il procedimento contro Mario Placanica, stabilendo che si è trattato di legittima difesa. A Genova è un venerdì di sangue, alle 5.30 del pomeriggio il bilancio provvisorio è di un morto e 180 feriti. Intanto il G8 è in pieno svolgimento, ad avvertire il capo dello Stato Ciampi e il presidente del Consiglio Berlusconi e il ministro dell'Interno Claudio Scajola. Io come prima cosa chiamai a Genova il presidente del Consiglio Berlusconi e il capo dello Stato Ciampi, che erano insieme e che stavano iniziando il G8, comunicandogli quello che era successo. Provo sgomento e dolore immenso per la giovane vita spezzata. Mi rivolgo ai dimostranti perché cessi da subito questa violenza che non dà contributo alcuno alla soluzione dei problemi della povertà nel mondo. Mix 24, la storia. Questo movimento andrà avanti, resisteremo a tutte le provocazioni, quelle indivise e quelle no. Rabbia, il sabato era la rabbia. C'era la voglia di uscire perché bisognava uscire di nuovo nelle strade. E la preoccupazione perché sapevamo che era una guerra e quindi di riuscire a tornare a casa tutti. Sul lungomare di Genova ci sono circa 300.000 persone. Da subito però si fanno vivi i Black Bloc che riprendono a devastare la città. La polizia da principio si limita a qualche lancio di lacrimogeni. Poi però, quando decide di caricare, non fa sconti. Alle ore 15 l'enorme corteo che si snoda sul lungomare è spezzato in due tronconi. Una violenza che veniva da due lati. Lo ricorda ancora Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa Social Forum. Disarmati di fronte alla violenza, prima dei Black Bloc e poi delle forze dell'ordine che caricavano loro in piazzale Manin e non i Black Bloc che erano passati distruggendo tutto. Com'è inevitabile, alla fine le cariche colpiscono soprattutto i manifestanti più pacifici, quelli meno abituati allo scontro, quelli che lo scontro non se lo aspettano perché non lo cercano. Sono i pacifisti, ad esempio quelli della rete Lilliput, dalle mani dipinte di bianco in segno di pace. E d'altra parte anche le forze dell'ordine hanno ormai perso la memoria storica degli scontri di piazza degli anni 70. Così l'allora ministro dell'Interno Claudio Scajola. A Genova le forze dell'ordine sono trovate di fronte a fatti eccezionali. Una guerriglia urbana. Non erano mai state abituate a questo. Né avevano avuto una formazione professionale per questa gestione. E quando qualcuno dice incapaci di dividere i violenti dai pacifici, la risposta è semplice, non è che i violenti portassero al braccio un segno di riconoscimento. Sabato 21 luglio, a sera si traccia un bilancio. Sono cifre impressionanti. 228 feriti tra i manifestanti, 65 tra le forze dell'ordine. Il G8 sembra chiudersi nel peggiore dei modi. Anche la cerimonia finale che vede allineati i grandi leader della terra è in tono dimesso. Il G8 dunque è finito, in realtà quasi nessuno ha prestato la minima attenzione ai temi di cui si è parlato e agli eventuali risultati raggiunti. L'attenzione di tutti è su quanto è successo in piazza e sul bilancio pesantissimo degli scontri, ma in realtà quel bilancio è un bilancio provvisorio, a Genova non è ancora finita. Sono le ore 23 di sabato 21 luglio. Amici ascoltatori, un momento molto tragico, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, non so, siamo come topi in trappola. Ero entrata nella scuola pochi minuti prima che arrivasse la polizia. Quando ho sentito persone che urlavano, sono uscita dall'aula. Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto il cortile davanti alla scuola pieno di poliziotti che correvano davanti al portone. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale. Eccoli, e questa fascia fascista che è entrata poliziotti nella radio. Sede di una radio. Abbiamo iniziato a correre su per le scale,

E infatti qualche giorno dopo il summit l'opinione pubblica viene a conoscenza di un altro episodio molto molto controverso, le presunte violenze nella caserma di polizia di Bolzaneto. Ci hanno detto che ci portavano in un posto più sicuro e ci hanno portato a Bolzaneto. Bolzaneto è a pochi chilometri da Genova. Il carcere di Marassi, nel centro della città, è ritenuto troppo pericoloso per ospitare i numerosi fermati. Come centro di prima detenzione, viene quindi adibita la caserma della polizia di questa piccola località. Siamo entrati in celle, con delle grate alle finestre, e ci siamo stati messi in posizione, non so, in piedi, con le gambe aperte, con le mani davanti alla fronte, rivolti verso il muro. Io vorrei... ma lo vorrei davvero, che qualsiasi di noi provasse a metterci in quella posa, non molto, 3-4 minuti. E poi pensasse che quello dei ragazzi che ci è rimasto meno ci è rimasto 10 ore, 8 ore, 14 ore, 16 ore. Un morto, 560 feriti, 301 arrestati e fermati. ...25 milioni di danni, 6.200 lacrimogeni sparati. Sotto processo 65 manifestanti e 82 appartenenti alle forze dell'ordine. Il processo contro Mario Placanica è stato archiviato. Il 13 aprile 2005 l'arma dei carabinieri congeda Placanica ritenendolo non idoneo per infermità dipendente da cause di servizio. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.